Eccoci qua dunque, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, sono le 21.07. Inizia anche per questa sera, 2 maggio, questo spazio che andrà avanti fino a circa le 22.30, poi ci sarà 25 o'clock. Sito internet è www.ondarossa.info, lo streaming credo vada bene. E con l'occasione saluto Maya dall'Argentina. Un saluto anche a Alessandra qui da Roma. 06 49 17 50, il contatto telefonico. Per le comunicazioni mediante posta elettronica l'indirizzo della radio è ondarossa@ondarossa.info. Domani invece sul sito stesso e sulla pagina Facebook prove tecniche di trasmissione /disorder si troverà la playlist e il podcast. Quindi si va subito ad iniziare con l'ultimo lavoro per Rise on Death, Peter Andersson, artista svedese di lungo corso per quanto riguarda la scena fondamentalmente dark ambient, anzi è uno dei pezzi di storia in attività da molti anni. È giunto al suo ultimo lavoro dal nome Alchimeia. Ci andiamo ad ascoltare la seconda parte della traccia con la quale abbiamo aperto anche la scorsa settimana, ossia Nigredo. Ecco qua dunque, ci andiamo ad ascoltare gli ultimi 7-8 minuti. e in maniera quasi impercettibile si passa al secondo brano di questo Alchimeia, ultimo lavoro per Peter Andersson, classico nome svedese, come svedese quindi è il suo progetto Raison Detre. In attività ormai da lontano 1992, ha a lungo militato nella Cold Meat Industry di Roger Carmenick di Brighter Death Now, e da un po' invece sta con la canadese, con filiale diciamo in Germania, Cyclic Law, come molti artisti ex Cold Meat Industry. Salutiamo a Londra Fabio FK Drone, lo salutiamo, e da Berlino Stefania in compagnia di vecchi amici di Stopaian Society, che salutiamo dunque anche loro, residenti anche loro a Berlino. Un saluto di nuovo ad Alessandra, e ci fa piacere che anche lei apprezzi questi Raison Detre, che in questo Alchimeia è andato a riprendere Peter Andersson le primordiali atmosfere ancora più gotiche, mantriche, e con un sottofondo di canti gregoriani, un classico dei primi lavori di Peter Andersson. La sua carriera poi sarà sempre costellata indubbiamente da queste atmosfere rarefatte, ma in questo frangente per l'appunto riprende delle cose che mi hanno ricordato gli esordi di Peter Andersson. Quattro lunghe tracce dunque in questo Alchimeia, tutte tracce che durano circa 17-18 minuti. Rimaniamo in queste atmosfere e saltiamo nei paesi balcanici, approfittando naturalmente della compilation eccellente di Raffaele Pezzella, in arte sonologist, che ha ideato questa ennesima compilation dal nome Unexpressed Sounds, The Balkan Perspective, che fa il punto della situazione dell'ottima musica che viene appunto dai paesi balcanici. Questa sera ci ascoltiamo un artista albanese dal nome Ilir Ljuka, e questa è The Blue Resonance of Moments. Ilir Luka con questa The Blue Resonance o Moments, artista proveniente dall'Albania, artista che salutiamo come salutiamo Giulia qui da Roma. Un alto momento di questa Unexpressed Sounds The Balkan Perspective, uscita proprio nel 2018. Al pari di Rise on the Etre, così spettrale, algido e austero. Magari con meno retrogusto gotico, ma di seguito all'altro penso faccia la sua ottima figura dopo Rise on the Etre. Adesso invece andiamo in terra del Bione, in Gran Bretagna, in Inghilterra, e lo facciamo con Sol Invictus, alle prese con il suo ultimo e interessantissimo lavoro dal nome Necropolis. C'è anche una versione doppia che contiene anche delle tracce live. Mr. Pike is watching. Dal primo volume Necropolis dunque è già partita questa Murder or Thames, poi ci sarà Shoreditch e Necropolis Egress. Traveller turns to goblins as they gaze into the river. The things they find in there can make the poor fish shiver. It's not only justice that has scales, but unlike justice, we're not blind. Mr. Toad keeps his eyes open and tells Mr. Pike who did the crime. Follow the river as it bends. Take a stroll along Murder on Thames. The quiet's broken by the barks from the guard dogs, our lolly guard. A low-paid au pair, she gets a sack from the trophy wife of a plutocrat. See the arms traders and the Sally sheiks. A look at Peter Bar DJ and an Ayn Rand freak. We're vermin privilege and their discreet fees. Loving at Westminster's den of thieves. Follow the river as it bends. Take a stroll with me along Murder on Thames. June the 18th, Robert Cowan was found dead, hanging from the scaffolding beneath Blackfriars Bridge. In his pockets were a false passport under the name Jean Roberto Calvini, several heavy bricks, and $15,000 in a variety of currencies. Initially thought to be just another Thames suicide, as the identity and the last movements of Calvi became known, the circumstances of his death became more and more suspect. Nicknamed God's Banker due to his professional relationship with the Catholic Church, his bank also had known links with the Mafia. The day before his body was found, he was removed from his position in the Banco Ambrosiano, which his private secretary committed suicide. By then, he had already fled his Rome apartment for London. Georgi Markov, BBC World Service journalist, walked across Waterloo Bridge to his bus stop on September the 7th. He remembered a feeling of prick or sting to his right thigh, and noted a man carrying an umbrella running away to a nearby taxi. 4 days' time, he would be dead, killed by a tiny ricin-filled pellet embedded in his skin. In 2001, the torso of a young boy was found in the river not far from Tower Bridge. There is evidence of a ritual killing. Investigations are ongoing and stretch across several countries. Tabloid newspapers are filling in the gaps with words like voodoo and satanist. In 1887 and 88, a series of unsolved crimes took place. Female body parts began to be found in the river, along its banks and in sites close to the Thames. At the time, the deaths were given little press attention, as Whitechapel was the centre of the city's macabre fears and expectations. Torsos floating in the river were just morbid curiosities and footnotes in larger tales of urban horror. In 1896, Amelia Dyer was hung by the neck until dead. No suicide, this. Her death was sanctioned by judge and jury for her crimes. Due to the time frame of her murders, she too was considered a possible suspect for the Whitechapel killer. But her victims were less bloody, too young and too many. She killed babies. For a substantial one-off fee and enough clothing for the child, she would nurse and adopt a baby, practice known as baby farming. In 1879, she was convicted of causing infant deaths through neglect and spent 6 months in hard labour. After that time, the bodies of the children were not given up to the doctors. They simply vanished downstream, or in carpet bags weighed down with bricks. The tiny soul was sinking to the bottom. Over water, over rolling water, for deep sea water on every hand, for the end of the world and it may be further, the tide of life string for land. A shortage, a bottomless shortage, a ditch, dig a ditch. The length of the shore to swallow the water, the rolling water, or the town will drown forevermore. Sweep the old man's chimney down. The pitch fell out of the sky like rain, and a black heap will never be green again. Ancora sono Invictus da questo Necropolis, la traccia che va a chiudere il primo CD Necropolis Regress. Some of them to and there's already dead. Stone cries, and the smothered breath. Tainted neighbors and a mumbling, stumbling savior, necropolis. Dunque il primo CD Necropolis, in questa versione diciamo lusso e limitata e autoprodotta proprio dallo stesso Tony Wakeford, e il secondo CD cominceremo a conoscerlo la prossima settimana. Si chiudeva con questa Necropolis Egress e si apre come si apriva con la stessa Necropolis in un'altra versione che sta andando sotto la mia voce. Passiamo oltre 21.40 e arriviamo qui in Italia. Adesso un progetto che ho conosciuto proprio grazie ad Alessandra, che sta sempre all'ascolto, anche questa sera. E sto parlando degli Holy Pieces, un eccellente duo che vede Ambra Chiara Michelangeli alla viola e collaboratrice peraltro anche di Teo Teardo, come è successo anche domenica scorsa in quello spettacolo di Céline dedicato e in sottoscrizione per Radio Onda Rossa. Ambra Chiara Michelangeli insieme a Marco Bonini, che cura più la parte elettronica delle macchine, Marco Bonini meglio conosciuto anche come Ubik. Questo è praticamente l'unico lavoro composto da questi due musicisti. Si chiama Used Pieces, quattro tracce abbastanza lunghe. E noi ci ascoltiamo Doctrine e Chasing the Dragon. ed è partita per ora da un'altra traccia, ma noi rimediamo subito. Holy Pieces dunque, questo sì che è vero, da questo Usted Pieces. ottimo dunque e ottima collaborazione tra il disturbatore sonico che è Marco Bonini e la viola di Ambra Chiara Michelangeli in questa bass line che ricorda una sorta di dub industriale, dove i due, chi manipola e chi suona uno strumento vero, creano questa bellezza che si chiama Usset Pieces. Maya non va molto distante dalla realtà, nel senso che oltre alle macchine il buon Marco si circonda anche di un minimo di oggettistica, di prammatica, per creare anche una serie di rumori, e speriamo che i due poi diano alla luce in prospettiva un nuovo e lungo lavoro. Ringraziamo dunque di nuovo Alessandra per averci fatto conoscere questi Holy Pieces da Roma. In qualche modo si è sfiorato il Giappone nella parte finale, Chasing the Dragon, e con il Giappone in un certo senso si riparte, perché adesso ci andiamo ad ascoltare questa nuova collaborazione tra Giovanni Leo Leonardi e Adriano Vincenti, vecchie conoscenze, tra Carnera e Macelleria Mobile di Mezzanotte. Si chiama Senketsu non Nightclub e c'è molto di cultura giapponese, di sfondo giapponese nipponico in questo album, e oggi ci andiamo ad ascoltare Torture and Logic of Domination e Naked Blood.